nasce ogni tuo vizio, da una corrente di elettroni, ci fan leva tutti i discorsi, anche quelli che sembran buoni. Ieri è esploso un treno, il suo ritardo, i passeggeri a bordo sbavavano dal cuore, a vedersi proiettati in aria, scollegati senza dolore. Arrestato Angelo Custode, spacciatore del mio miglior nemico, l'han seguito tutta la notte con la faccia dietro il viso. Quante vite alla rovescia per vedermi riciclare, ora che mi son guastato bene potrà anche funzionare. Han puntato sull'assenso del consenso, comandare e raccomandare, ma guardiamoci un po' negli occhi, a chi la diamo a bere? Dove nasce ogni tuo inizio? Da una tempesta di occasioni, ci fan leva anche gli ideali, quelli che si credono buoni.